È vero, ci sono dei motivetti che ci perseguitano, non ci mollano più. Assolutamente, questi motivetti per la scienza si chiamano earworms, vermi delle orecchie, è una definizione abbastanza strana, però si chiamano vermi delle orecchie perché in effetti sono pezzettini di canzone, di solito non è tutta la canzone che resta in mente, sono pezzettini, no? Per esempio il ritornello, che ritornano e la scienza si è occupata del motivo per cui ci ricordiamo questi pezzettini di musica. E ha scoperto che i motivi per cui la nostra memoria li ritira fuori sono tanti e di solito sono motivi affettivi. La musica ha la capacità di scavare un solco più profondo nella nostra memoria e lo fa perché la musica a noi ricorda volti, ricorda eventi, ricorda emozioni. Per esempio, una musica la posso ricordare perché l'ho sentita in un momento di gioia oppure in un momento di stress. Ecco, l'associazione con l'emozione scava un solco più profondo nella mente. Un altro elemento che secondo me è interessante è che tiriamo fuori questi vermi delle orecchie, cioè i pezzettini di canzone, quando siamo distratti, cioè quando la nostra mente non è impegnata e concentrata. La mente distratta tira fuori dalla memoria di solito musiche, parole e ricordi.